so che lo voglio, mi stanno intorno e son costretto a farlo. Però dove sei tu? Però dove sei finito? Però dove vai adesso? E dillo, sa, dimmi cosa c'è quando qui arriva special step sul beat. Dimmi che funziona così, sì. Dimmi che lo sai benissimo, dimmi che ti fa malissimo, dimmi che così è stupendo. Dimmi perché non sei qui, dimmi che fine hai fatto, dimmi dove devo andare, dimmi te ne devi andare. Quasi che esisto solo io.